a Bruxelles delle persone, rappresentanti che conoscono le lingue, la mia risposta è sempre: ma voi volete mandare a Bruxelles il vostro miglior linguista o il vostro miglior esperto? Io vi consiglio di mandare il vostro migliore esperto e poi all'interpretazione pensiamo noi. Ecco, a proposito di interpretazione e traduzione, stiamo parlando di uno dei più grandi servizi al mondo. Io non ho i numeri, ma non fatico a immaginare che stiamo parlando davvero di un'istituzione molto importante. Ci può dare un quadro di questa, della portata di quello che è il sistema interpretativo e traduzioni in Europa? Volentieri, ma ve lo do preciso solo per l'interpretazione, perché in realtà sono due servizi indipendenti. Io mi occupo delle riunioni, della parola parlata, mentre la traduzione è il verbo scritto, no? Il mio servizio, la mia direzione generale conta, diciamo, fra funzionari e equivalenti freelance, un migliaio di persone al giorno. Abbiamo 600 funzionari interpreti e assumiamo dai 2 ai 300 freelance ogni giorno per coprire in 60 riunioni da 3 a 23 lingue a seconda della necessità. E dunque questa è la dimensione, copriamo, l'ho detto, 60-70 riunioni al giorno, che alla fine dell'anno ci porta a 12.000 riunioni circa e a circa 135-140.000 giornate interpreti. In conclusione, visto che stiamo parlando anche di una attività economica, insomma di una possibilità, spesso parliamo della crisi occupazionale in genere e tra i giovani, direi che qui si intravedono spazi significativi. Qualche consiglio per percorrere questa strada? E, intanto bisogna avere una formazione per l'interpretazione a livello post-universitario, perché è importante aggiungere una formazione più specifica a un livello di cultura universitario che può essere anche su un'altra materia, non necessariamente linguistica, facciamo, non so, economica, di diritto, perché questo porta conoscenza ed è utile nell'interpretazione, nelle riunioni delle istituzioni. E poi ci sono delle università che impartiscono questa formazione di livello master o comunque post-universitario. Io consiglierei a chi è interessato a questa professione, che è molto bella e che aprirà ancora spiragli, possibilità da 5 a 10 anni, perché c'è un ricambio generazionale, consiglierei di concentrarsi non solo sulle lingue più parlate, come francese, inglese, spagnolo, ma anche su qualche lingua un po' più rara, che ciò aumenta le possibilità di assunzione poi da noi. Per esempio? Ma per esempio una delle lingue del dopo ampliamento, che ne so, un ceco, rumeno, tutte quelle lingue che sono meno note e che possono fornire un vantaggio supplementare all'interprete che sa interpretarle. Insomma, nella parola interpretata c'è futuro. Ma direi di sì, perché vedo male un paese rinunciare all'espressione della sua lingua materna in sede di negoziato, quando il risultato è una legge che poi sarà applicabile a tutti i cittadini del suo paese. È chiaro che col passare del tempo e coi delegati che conosceranno sempre più lingue, non ci saranno più tante lingue in tutte le riunioni, ma a livello di decisione, quando viene presa la decisione su una legge comunitaria, per regolamento ci devono essere tutte le lingue. Dunque il futuro c'è ancora per quello. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.